introdurre. Siamo qua a presentare il nuovo libro di Gerolamo De Michele, Il profeta insistente, che si potrebbe definire una biografia narrativa di un concetto, che è il concetto di genocidio, termine che è stato coniato dal, diciamo, dal protagonista umano di questa biografia. Questa biografia ha un protagonista umano e uno extraumano, non umano, ecco, che è il genocidio, ma il protagonista umano è Raphael Lemkin. Raphael Lemkin, giurista ebreo polacco, che è l'autore, diciamo, l'artefice, un po' più di un ispiratore, un po' meno dell'autore diretto, della convenzione del 1948 che codifica il reato, il crimine, insomma, internazionale di genocidio. Lui stesso ha coniato la parola genocidio dopo vari tentativi di dare un nome a dei crimini che non avevano un nome. C'è un famoso discorso di Winston Churchill a proposito dell'invasione dell'URSS da parte dell'esercito tedesco, insomma, l'operazione Barbarossa, dove parla di crimes without name. Lemkin si è dato il compito di nominare quei crimini perché lo riteneva necessario. Quando nasce un concetto nasce quando c'è un problema che non può essere affrontato, non può essere articolato, non può essere posto davvero senza una parola che gli dia nome. Così nasce un concetto, così c'è questa operazione, diciamo, di neologizzazione che introduce un nuovo termine che diventa uno strumento. Genocidio è questo strumento di cui la comunità internazionale si è dotata a partire dal 1948 per definire questi crimini che prima erano indefinibili. È composto da genos e da verbo cedere, cioè che vuol dire uccidere in latino. Diciamo che nella convenzione del 48 vengono elencati degli atti che anche uno di loro in combinazione con un altro, non è necessario che ci siano tutti insieme, costituiscono genocidio, però sono un numero di azioni minore di quello che Lemkin avrebbe voluto nella convenzione. Di questo poi parleremo, perché Lemkin aveva ragionato molto sulla dimensione culturale del genocidio e quindi si era concentrato anche sulla distruzione, appunto, delle istituzioni educative, delle opere d'arte, dell'immaginario e quant'altro. Questa cosa non è stata recepita quanto lui voleva dalla convenzione, ma abbiamo tutti i suoi appunti preparatori, tutte le sue bozze, tutti i suoi scritti che Girolamo va ad analizzare, e quelle pagine, per quanto non siano diventate legge, sono molto feconde e in effetti hanno molto ispirato tutta una discussione che c'è stata nell'ultimo quarto di secolo più o meno sul concetto di genocidio, che ci ha fatto vedere quanto in realtà il concetto sia complesso, sfaccettato, pieno di risonanze che vanno molto oltre la sua etimologia, perché già la sua etimologia contiene un problema, chiaramente: cos'è il genos? Tra l'altro qui viene detto più volte che per Lemkin genos è la vittima ma è anche il carnefice. Cosa vuol dire? In realtà per Lemkin stava per aggregati umani di varia natura. Praticamente il genocidio sarebbe un crimine compiuto contro una forma di vita collettiva, non necessariamente contro un'etnia, contro una razza, ma contro una forma di vita collettiva degli umani, una forma di vita che è in divenire, è in processo, è in continua evoluzione e può dare contributi all'umanità tutta, ma questo processo viene bloccato da un controprocesso che è il genocidio, che priva tutta l'umanità del contributo che quella forma di vita collettiva avrebbe potuto dare e che non può più dare perché è stata distrutta. Quindi vedete che il concetto è molto ricco in realtà. Non si presta, se lo si va ad esaminare bene come fa Girolamo, alle banalizzazioni del dibattito giornalistico che abbiamo visto. Questo libro, che è la biografia del giurista di Lemkin, che ha una vita interessantissima, tra l'altro, la sua bildung, la sua formazione intellettuale, il suo modo di ragionare, di usare i concetti, anche il suo modo di fare lobbying, di fare militanza in modo quasi sacrificale. Infatti il profeta, no? C'è qualcosa di messianico, di ieratico nella sua figura, che Girolamo ben rende. Appunto, è la biografia del giurista e la biografia del concetto, ed è uno dei concetti che negli ultimi mesi, anzi da un anno, due ormai, sì, due, diciamo nell'ultimo anno, diciamo, di escalation, di mobilitazioni dovute alla flottiglia, tutte queste cose, insomma, il dibattito si è arroventato proprio su questo concetto, che è stato brandito in maniera intimidatoria per impedire che venisse applicato a quello che stava succedendo a Gaza. È stato brandito in una maniera banalizzante, semplicistica, come sinonimo di Shoah. Ma il genocidio non è la Shoah. A parte che Lemkin comincia a ragionare su questo concetto e su questo crimine prima che venga liberata Auschwitz, e la Convenzione del 48 non nomina mai la Shoah, non è stato coniato prendendo la Shoah come modello il genocidio, perché altrimenti sarebbe scattata questa cosa che scatta comunque, purtroppo, che se una cosa non è sulla scala della Shoah non è genocidio. Allora non l'è stato, non è stato a Srebrenica, non è stato in Ruanda, non è stato da nessuna parte, perché se noi cerchiamo una comparazione piatta con l'Olocausto, non la troviamo, non troviamo esattamente quel tipo di modalità, non troviamo quella scala. Però è stato detto che non si può paragonare alla Shoah per scala, per pianificazione, per tutto quanto, quindi non è genocidio. Tutti sono incappati in questo errore. Nessuno ha citato la Convenzione del 48, nessuno ha citato Lemkin. Nessuno era al corrente della complessa genesi di questo concetto e delle sfumature che contiene, e quindi è stato usato nell'ambito di quella che, citando Italo Calvino, Girolamo chiama la peste del linguaggio. È stato usato in modo pestilenziale il termine genocidio, senza mai comprendere di cosa si stesse parlando veramente. Questo tutti, vuol dire da Liliana Segre in giù, hanno detto: ma non si può paragonare alla Shoah. Se noi dicessimo che quello che stanno subendo i palestinesi è genocidio, allora scatterebbe immediatamente il paragone con questo crimine unico che è stata la Shoah. Tra l'altro, proprio anche sull'unicità dell'Olocausto, sull'unicità della Shoah, i Genocide Studies degli ultimi 25 anni hanno detto delle cose. Il problema è che queste ricerche sul genocidio, questi studi sul genocidio, queste ricostruzioni di come è nato il concetto, questo rinnovato interesse per la figura di Lemkin, in Italia non sono arrivati. Quindi il libro Giro l'ha scritto per colmare un buco anche. La maggior parte della gente che avrà in mano Il profeta insistente incontrerà Lemkin per la prima volta, perché Lemkin in Italia è un emerito sconosciuto, a parte lo conosce Traverso, che però non sta neanche in Italia, tra l'altro, lo conosce Graziosi. Cioè, gli unici italiani che si sono occupati in qualche modo di Lemkin, e hanno dimostrato di avere contezza del dibattito che c'è stato nell'ultimo quarto di secolo intorno a lui e intorno al concetto di genocidio, sono persone che appunto non studiano, non lavorano, non fanno ricerca in Italia. Anche questo cioè, dice molto. Qui c'è una specie di bolla che è rimasta refrattaria a questo dibattito, e i risultati li vediamo nella chiacchiera e nella peste del linguaggio dell'ultimo periodo. Su JAP, come Wuming, abbiamo ospitato diversi contributi negli ultimi mesi di Girolamo, che erano anche delle tappe d'avvicinamento all'uscita di questo libro, ed erano proprio sulla questione del genocidio, dell'uso giornalistico e del chiacchiericcio intorno al termine genocidio, chiacchiericcio che ha semplicemente aumentato la confusione sulla cosa. Ecco, io penso che questo libro abbia il merito di fare chiarezza su, cioè, di cosa parliamo davvero quando parliamo di genocidio. Io vorrei partire da questa cosa che dicevo all'inizio, la biografia di un concetto. Cioè, qui abbiamo un personaggio di cui mostriamo il difficile concepimento, la travagliata nascita, la contrastata crescita, il successo paradossale e poi le nuove avventure che vive una volta che si è affermato nel mondo. E questo personaggio è un concetto, è un termine. Ecco, mi è piaciuto molto come ha impostato il libro in questo modo, perché è veramente una grandissima avventura intellettuale ed etica quella che porta all'affermarsi nel mondo del termine genocidio. Vorrei partire da qui. Intanto grazie a tutti e a tutti. Sì, io qualcuno in Italia su Lemkin qualcosa ha scritto, però stiamo parlando di saggi per riviste come Flores, Portinaro. Mi risulta che Portinaro possegga la copia originale del libro di Lemkin, Axis Rule, e ci sta. Una delle quattro copie che esistono in Italia. Si dice che, non ho modo di saperlo, ho buttato un occhio e francamente comprare sul mercato dell'antiquariato quella originale varrebbe un mese di stipendio, quindi io ce l'ho in PDF. Flores, che forse è l'unico storico, vero storico, ecco, Graziosi in realtà sta a Roma, però hai ragione, le cose sul genocidio, la cosa più importante da cui traggo queste note critiche sono in un'introduzione a quattro mani su un'antologia pubblicata negli Stati Uniti con studiosi americani. Tra l'altro Graziosi è contrario a usare la parola genocidio, però a me non dispiace, nel senso che per me è importante, e poi facciamo la storia all'indietro, per evitare il genocidio fai da te, cioè che ciascuno dica per me il genocidio è, segue la qualunque come definizione. Allora, per me si deve utilizzare la definizione della convenzione del 48, anche perché quella convenzione è una convenzione, non una dichiarazione. Il giorno dopo fu approvata la dichiarazione dei diritti universali, ma una dichiarazione è per appunto una dichiarazione, non vincola. La convenzione vincola ed è stata firmata da quasi tutti gli stati ed è stata firmata dall'Italia. Ho cercato anche di ricostruire un minimo di percorso sul fatto che il governo italiano comunque diede il suo appoggio nel 48, non contava niente, e quindi questo comporta anche delle conseguenze giuridiche. Dopodiché, partendo da lì, poi abbiamo un punto di riferimento, una stella polare, e possiamo decidere se fare un uso estensivo del termine o un uso ristretto. Io però ricordo, la convenzione viene approvata alle 5:30, alle 2:30 c'è un del 9 dicembre, quindi con i delegati che stanno già per lasciare la sala per andare nella votazione generale in commissione, i delegati polacco e cecoslovacco propongono un emendamento che viene respinto. L'emendamento era non il riferimento esplicito alla Shoah, ma la locuzione il crimine come nella recente guerra. Anche questo riferimento, seppur molto vago, che poteva anche richiamare il discorso di Churchill, viene respinto proprio perché questa convenzione, ecco, se avesse un riferimento preciso, rischierebbe di ridurre il genocidio soltanto ai genocidi passati nominati nella convenzione. E quindi al massimo sarebbe utile per reprimere, per fare un processo fatto meglio del processo di Norimberga, diciamo, sul piano giuridico, ma non servirebbe a prevenire, perché questa convenzione prevede genocidi futuri. E dopodiché, non è il testo, è però sul genocidio culturale che è veramente importante, ci torniamo dopo, non è il testo di Lemkin. Lemkin preparò la prima stesura, poi ha accettato dei compromessi, è stata credo l'unica volta in tutta la sua vita che ha accettato dei compromessi. A un certo punto Lemkin, in uno scambio di lettere, lo dice a un suo collaboratore: cos'è meglio in fondo, una convenzione con dei compromessi che firmano tutti o una convenzione fatta veramente bene che però poi non firma nessuno? E sì, certo, la Shoah ha dato ovviamente una spinta morale, diciamo che non si poteva dir di no, e non si poteva dir di no è importante perché in realtà chi non voleva la convenzione erano le quattro potenze vincitrici. Diciamo che gli Stati Uniti fanno un po' i furbi, si nascondono, la delegazione statunitense si nasconde dietro quella francese e inglese, e poi però la delegazione statunitense capeggiata da Eleanor Roosevelt, che ha un ruolo talmente importante nella convenzione, nella dichiarazione dei diritti umani, che si disse la dichiarazione di Eleanor Roosevelt e la convenzione di Raphael Lemkin. La Russia, il delegato russo era Vyshinsky, vecchia conoscenza. Vyshinsky era probabilmente l'unico che conosceva bene Lemkin, per averlo avversato nel 1933. Vyshinsky si lascia convincere Bisogna convincere Wyszynski che non è una manovra contro l'URSS. Ma per Wyszynski qualunque cosa era una manovra contro l'URSS. Però Wyszynski coglie anche la possibilità di rigirare la convenzione contro i paesi occidentali, perché il blocco vincitrice della guerra si sta già segmentando e nel dibattito questo si vede. Per cui porta a casa la rinuncia ai gruppi politici, perché su quello l'Unione Stalin, Wyszynski avevano la coscienza sporca, ma alla fine appoggia questa convenzione che inglesi e francesi non possono avversare apertamente. Cioè, diciamo che quello che chiedevano era che tra i gruppi possibili vittime di genocidio, religiosi, razziali, politici, eccetera, c'era anche l'aggettivo politici. Questo non c'è nella convenzione. Questo è stato fatto togliere dall'Unione Sovietica. Non potevano dire di no in quella situazione. Però è anche interessante notare che nel dibattito, che ecco, gli atti della convenzione dal 46 al 48 sono stati integralmente pubblicati e quindi sono consultabili. Tra l'altro c'è un'edizione in PDF che è utilissima per fare le ricerche dei nomi, delle date, eccetera. Insomma, ci si può lavorare bene e leggendola si vede, insomma, dal 46 al 48 il mondo era tutt'altro che un mondo pacifico. In quei dibattiti vedi la Nakba, vedi le violenze tra indù e musulmani sia in India che in Pakistan, e non a caso sono le giovani diplomazie musulmane, Pakistan, Libano, Siria, e poi arriviamo a un giurista egiziano, ma che lì rappresenta l'Arabia Saudita, che si presenta a Lemkin e ha un ruolo decisivo. Però in realtà Lemkin aveva creato il termine nel 42, il libro esce nel 44, 42 o 43. Perché Lemkin scrive un libro che è una gigantesca raccolta di documenti, circolari, gazzette, atti legislativi, delle forze del dominio dell'asse, non del dominio tedesco. Dell'asse. Ci sono anche documenti sui crimini compiuti dal regime italiano, ad esempio in Grecia. I greci sotto l'occupazione italiana hanno avuto il livello più minimo di nutrienti a disposizione, ad eccezione fatta degli ebrei. Cioè nessuno, a parte gli ebrei, ha fatto la fame tanto quanto i greci. È spaventoso la quantità di grassi che non hanno per un paese che era il primo produttore di olio d'Europa. Perché? Perché tutte le sostanze nutritive venivano portate via. E questo l'ha fatto l'esercito italiano. Lemkin decide di scrivere un libro all'interno del quale incastona un saggio, il capitolo 9, incastona proprio nel senso che è al centro, quindi prima e dopo documenti, ma nel mezzo c'è questo saggio in cui motiva anche sul piano linguistico il perché del neologismo. Lemkin scrive questo libro dopo aver capito che Roosevelt e Churchill non hanno intenzione di agire per preparare una giurisdizione che serva a condannare i crimini che le forze dell'asse stanno compiendo, benché siano perfettamente a conoscenza. Lemkin non riesce neanche a parlare con Roosevelt, riesce a dargli un memorandum e Roosevelt gli risponde: bisogna aver pazienza. Però riesce a parlarci Jan Karsch, ebreo polacco del Bund, che per due volte si infiltra nei campi di concentramento e poi ne esce, che è una biografia altrettanto interessante e importante. Lui riesce a parlare e si sente dire anche lui: non è il momento, abbi pazienza. Però c'è una pubblicistica, soprattutto inglese, perché il governo polacco in esilio è a Londra, e quindi io ho elencato i testi che alla fine del 42 un politico poteva leggere. Poteva non sapere la gravità, però il nome Auschwitz, ad esempio, c'era. Quindi erano a conoscenza. Allora Lemkin decide: mi rivolgo alla pubblica opinione. Se non si passa dall'alto, mi rivolgo alla pubblica opinione. Facciamo un passo indietro. Nel 1933, Lemkin è un giurista importante a livello europeo. Fa parte di un giro importante, tant'è vero che oltre a Lemkin, altri due giuristi, uno francese e uno rumeno, saranno i coautori della prima stesura. C'è un'attività molto intensa di congressi internazionali in cui si sta elaborando il concetto di danno generale. Il danno generale è quello che colpisce quelli che stanno attorno all'obiettivo. E lì Lemkin prepara un memorandum a cui manca soltanto la parola genocidio. Lì per lì decide di chiamarla o barbarie o vandalismo. Vandalismo è la distruzione delle opere d'arte, barbarie. Barbarie per Lemkin è quando si ritorna indietro al diritto medievale, e cioè all'onnipotenza del sovrano, al sovrano che senza pezze d'appoggio, per semplice analogia, può decidere che questo è un crimine perché è analogo a quest'altra cosa che per me è un crimine. Usa barbarie in questo senso, quindi lo usa anche riferito alla giurisprudenza europea, non lo usa in senso razzistico come gli è stato rimproverato. Cioè, ad esempio, la giurisprudenza nazista, il codice penale fascista, per lui è barbarie. Esatto, esplicitamente quella nazista. Sì. E perché c'è questo lavoro su questo concetto? Perché in realtà nella prima guerra mondiale, ecco, la seconda guerra mondiale ha fatto passare in ombra, per gravità, dei crimini che probabilmente possono configurarsi già come genocidio, compiuti nella prima guerra mondiale. E i responsabili di questi crimini sono stati di fatto impuniti, il che vuol dire che le convenzioni dell'AIA non sono abbastanza efficaci. Ecco perché c'è questo movimento, di cui Lemkin è uno delle punte di diamante, ma è un movimento collettivo europeo, che però viene bloccato di fatto dal mutamento del quadro politico. Hitler al potere significa che la Polonia decide una politica di buon vicinato, il che significa reprimere qualunque tentativo di prendere parola contro il regime tedesco. E quindi Lemkin non viene neanche mandato nella delegazione polacca, che pure presentava questa dichiarazione, questa proposta, che viene quindi letta ma poi accantonata, neanche messa al voto. Ma chi legge questo libro, ha in appendice tutta la documentazione giuridica che sto citando, chi legge questo testo del 33 si accorge che davvero manca soltanto la parola, e siamo nel 33. Ma in realtà Lemkin aveva già chiaro il quadro nel 27 e aveva già presente i problemi, anche se non sapeva qual era il quadro risolutivo, nel 21. Cosa succede nel 27 e nel 21? Sembra quasi lo stesso evento. Nel 21 uno dei tre responsabili diretti del genocidio degli armeni, Talat Pasha, viene giustiziato a Parigi da uno studente armeno che ha perso tutta quanta la famiglia. Ma proprio nel senso che lui è vivo perché sua madre, non è chiaro se intenzionalmente o no, ha preso il proiettile indirizzato al figlio. Viene processato e viene assolto. Perché? No, scusate, a Berlino. Avviene a Berlino. E lì già Lemkin comincia. Lemkin è uno studente, ha dei docenti importanti che poi diventeranno suoi collaboratori. I suoi docenti entreranno nel giro governativo e sono importanti a livello europeo. Quindi ha degli ottimi giuristi. E arriviamo tra un attimo alla discussione che Lemkin imposta già nel 21 e poi di nuovo nel 27. Nel 27 viene assassinato, viene giustiziato a Parigi da uno studente ebreo anarco-bolscevico il responsabile dei pogrom contro gli ebrei ucraini. Non sto neanche a raccontarvi cosa succede in 2 anni in Ucraina tra il 18 e il 20, ma a un certo punto c'è un governo che noi potremmo chiamare fascista, se non fosse che il fascismo ancora non è nato, che scatena la violenza contro gli ebrei. Si parla di 50-100.000 vittime. Questo studente giustizia quello che era stato il dittatore in quel momento e viene anche lui assolto. E lì Lemkin, su una rivista Yiddish, una rivista che sta per buttare fuori Jabotinsky, il padre del sionismo fascista, il padre politico di Begin, quello che Primo Levi ha definito fascista, ecco perché posso dirlo io, che farebbe vendere un sacco, è popolarissimo, però questa rivista Yiddish, che sarà perseguitata dal governo, lo butta fuori, Lemkin rimane. Lemkin scrive un articolo intitolato Un bellissimo crimine e inizia facendo l'apologia del tirannicida. Sembra, non so, Alfieri, se vi ricordate. No? Non è retorica. Poi Lemkin dice: questo studente ha incarnato il senso di giustizia che dimora nel cuore dell'umanità. Ma questo senso di giustizia non può affidarsi soltanto alle scelte individuali. è quindi necessario, proprio perché questa esigenza di giustizia c'è, che sia sancito questo crimine, perché i suoi maestri gli rispondono: non è un crimine, perché è un crimine solo se c'è una legge che lo dice. E la sua risposta è: ma allora io, se uccido un uomo è un crimine, e se uccido un milione di uomini no? Questo non può essere. Ma soprattutto Lemkin ha ben chiaro, e ripeto, nel 21 sono solo domande, però già le pone, e attenzione, i docenti di Lemkin erano docenti che noi chiameremmo oggi progressisti, quindi non fautore di un positivismo giuridico orientato al conservatorismo. Ragionano da veri giuristi. Il problema è che Lemkin, che pure è un giurista, nel 33 è un giurista importante, ripeto, tradotto in tutta Europa, già noto negli Stati Uniti, ha già delle proposte di andare a insegnare negli Stati Uniti. Lemkin capisce che il diritto non può essere autoreferenziale, deve fondarsi su qualcos'altro. Io, non avendo una esplicitazione di cosa sia per Lemkin, perché non lo dice, questo senso di giustizia che dimora nel cuore dell'umanità, l'ho paragonato alle leggi non scritte, agli agrafa nomoi dell'Antigone. Quindi c'è qualcosa esterno al diritto a cui il diritto deve rispondere. E non solo, i suoi maestri gli dicono anche: non può esistere un diritto sovranazionale, perché altrimenti sarebbe la fine della sovranità nazionale. Ed è esattamente quello che nel 33 Wyszynski capisce quando legge questa relazione. Tutta l'Europa le ignora, Wyszynski scrive un testo di fuoco. Ovviamente dice che Lemkin è un agente che vuole colpire l'Unione Sovietica, ma capisce perfettamente qual è il problema. Ed è vero, Lemkin ha ben chiaro che nell'alternativa tra uno Stato sovrano e una legislazione sovranazionale bisogna sacrificare la sovranità dello Stato. Una legislazione sovranazionale è una limitazione dell'onnipotenza dello Stato sovrano. Gli Stati non possono fare quello che vogliono, altrimenti uno Stato potrebbe sancire per legge il genocidio e non sarebbe un crimine. Quindi, come si vede, i problemi di cui poi la convenzione è una soluzione non definitiva dal punto di vista di Lemkin sono gli stessi di cui stiamo discutendo oggi. Cioè i problemi di cui stiamo discutendo, ecco perché sono necessarie precise parole, sono molti. Non c'è soltanto il genocidio in corso a Gaza, per me è un genocidio, ma c'è un attacco al diritto internazionale umanitario che è compiuto con l'esplicita intenzione da parte di una serie di forze politiche, una serie di esponenti politici, di riprendersi la sovranità dello Stato e distruggere queste istituzioni, che nel frattempo sono state implementate, perché c'è stata la convenzione, lo Statuto di Roma del 2000, che ha creato la Corte Penale Internazionale, dove però abbiamo un problema, e cioè non tutti, anzi non molti stati hanno firmato quello statuto, che si è svolto a Roma, segno che una volta l'Italia era un luogo importante per il diritto internazionale. Qui vorrei fare un nome: Antonio Cassese, che è stato anche uno dei giudici della Corte Penale Internazionale, e grazie a quella corte che sono stati processati e condannati i responsabili del genocidio del Ruanda e di Srebrenica. E questo vuol dire che, facendo giurisprudenza, hanno interpretato le norme, e queste interpretazioni hanno esteso la portata delle norme. Ad esempio, il genocidio culturale di fatto è rientrato con queste interpretazioni. Però se noi guardiamo a chi ha firmato lo Statuto di Roma, o a chi dopo averlo firmato ha ritirato la firma, come gli Stati Uniti, ci accorgiamo che soltanto guardando i principali conflitti in corso, che comunque sono 55 in questo momento, lo Statuto di Roma e quindi la Corte Penale Internazionale non sono sottoscritti da Stati Uniti, Russia, Ucraina, Israele, Cina. In tutto il Medio Levante soltanto Palestina e Giordania hanno sottoscritto l'una e l'altra, tutti gli altri paesi no. Il che vuol dire che la Corte Penale Internazionale è legittimata da alcuni stati ma altri no, e questo aiuta anche a spiegare perché certi, Putin, che ha un mandato di cattura, o Netanyahu, anche i leader di Hamas, ma i leader di Hamas sono morti, possono muoversi in aereo, ma non del tutto liberamente, perché ad esempio non viaggiano in paesi e non sorvolano paesi per i quali in teoria potrebbero essere. Però aggiungo che una cosa che va detta: l'Italia non ha una legge attuativa dello Statuto di Roma, mentre la convenzione che l'Italia firma nel 52, ma io ho trovato una lettera di uno degli emissari di Lemkin che nel 48 parla con Carlo Sforza, col conte Sforza, che è un po' più che un ministro degli esteri, è un papabile per la presidenza della Repubblica, e gli assicura che per il niente che l'Italia conta nel 48 il governo italiano sosterrà la proposta di convenzione. E poi magari dopo parliamo anche di chi sono questi. Poi nel 52 l'Italia sottoscrive, nel 67 c'è una legge che rende effettiva che se un genocida riconosciuto passasse dall'Italia, la magistratura italiana potrebbe spiccare un mandato di comparizione. La 962. Eh? La 962. Sì, del 67. Grazie. E invece, dopo 20 anni di... dopo 20 anni esatti di silenzio, è stata istituita nel 2020 una commissione, la commissione Palazzi Pocar, che ha elaborato una bozza in 2 anni. L'attuale governo si è trovata una bozza, cioè si è trovato il testo di legge per attuare la convenzione del 2000, lo statuto del 2000, poteva fare una mossa furbissima, cambiare l'intestazione da bozza, stamparla su carta del governo e dire: dopo 25 anni arriviamo noi e colmiamo uno dei tanti buchi che quelli di prima non hanno. Invece questa proposta è stata sepolta sotto un mare di carte, è stata presentata una proposta di legge che colpisce solo i reati marginali e quindi di fatto accantonata. E però a quanto pare anche l'opposizione, o cosiddetta opposizione, ignora questo problema che, attenzione, è stato denunciato sui principali giornali da giuristi come Luca Baiada o Chantal Meloni. Chantal Meloni è una delle figure giuridiche che intervengono nel dibattito televisivo, quindi ha una certa notorietà. Ovviamente anche lei è immediatamente accusata di essere antisemita. Quindi ad avere un minimo di sensibilità viene da dire: qualcuno di queste cose, più esperto di me del diritto, che me le sono costruita questa competenza negli ultimi anni, ci sarà. Ecco, sarebbe un bel argomento per un'opposizione: perché non fate questo? Allora quest'altra volta vinciamo noi e la facciamo noi. Piacerebbe sentirlo. Quindi vabbè, niente, ti ripasso la palla. Se no vado avanti. Sì. No, prelevo dal tuo intervento un po' di elementi e li metto assieme e vanno a comporre una figura che è quella del colonialismo. Noi abbiamo detto, tu hai appena spiegato quali erano i motivi per cui Wyszynski, per cui l'URSS stalinista ha fatto attrito nei confronti del concetto di genocidio, della convenzione, del lavoro di Lemkin. Francia e Inghilterra invece, Francia e Gran Bretagna invece, hanno il problema che quel crimine potrebbe essere usato contro di loro in quanto potenza coloniale, che queste cose le ha fatte. Questo è quindi uno dei motivi per cui Francia e Gran Bretagna remano contro, è questo. Di contro invece, ad aiutare Lemkin sono i diplomatici di piccoli paesi che hanno subito il colonialismo e il rapporto coloniale. Questo è importante. L'altro dato che tu hai detto, no? L'Italia poi ratifica la convenzione, lo fa nel 52, ma l'Etiopia l'aveva fatto 3 anni prima. Cioè l'Etiopia, il paese che aveva subito l'invasione italiana, è molto più lesta a recepire. Cioè chi ha subito il colonialismo capisce subito che questo nuovo concetto e questo crimine, questa convenzione eccetera, possono servire a difendersi da quel tipo di sopruso, mentre chi sta dall'altra parte del rapporto coloniale, dalla parte del colonizzatore, invece lo vede con giusto sospetto, giusto dal suo punto di vista sospetto. Dopodiché il problema del colonialismo Lemkin se lo pone per il resto della vita, perché dal 48 fino alla morte nei pochi anni che gli restano da vivere, lui si occupa moltissimo del problema del colonialismo, della decolonizzazione, si occupa della guerra d'Algeria, della questione palestinese, ed è una pagina della sua storia che tu illumini, che è molto affascinante. Quindi diciamo che dietro tutta la questione del dibattito del genocidio c'è questa immensa realtà, questa immane realtà di orrore che è il colonialismo. E vorrei che tu parlassi più nello specifico di questo. Allora, partiamo intanto dalla lobby di Lemkin, cioè i piccoli paesi. E venne proprio detto come una battuta, ma nel linguaggio anglosassone lobby non è una parola negativa, perché non indica un lavoro nascosto. L'importante è che si sappia. Lemkin, è significativo che per presentare la proposta di convenzione ci volessero 3 firme, e Lemkin ottiene le firme di Panama, Cuba e India. Però l'India nel 1946 è appena nata, quindi anche l'India diplomaticamente conta poco. E attenzione, però, a capo della delegazione indiana c'è una donna. Dico questo perché Lemkin metterà insieme i tanti piccoli paesi. Ecco, è riuscito a bucare il muro di gomma delle grandi potenze facendo massa critica. Anche la stessa convenzione, se non avesse avuto almeno 20 firme entro i primi 2 anni, sarebbe decaduta. Quindi si trattava di raccogliere. E i piccoli paesi che appoggiano Lemkin sono in buona parte i paesi sudamericani e i paesi musulmani. Io ho trovato un testo che Lemkin scrive, la seconda parte di un testo che non si trova, parentesi, le carte di Lemkin sono conservate in 2 archivi diversi e non sono state ancora archiviate con i criteri standard dell'archivistica. Quindi sapere che un certo documento in una certa scatola, in una delle 2 biblioteche, significa dire questo documento, e loro ti dicono sì, ma noi non ti apriamo la scatola, noi ti fotocopiamo, ti riproduciamo tutta la scatola, poi te lo cerchi tu. E Lemkin non è morto nel suo letto. Lemkin è morto di crepacuore nell'ufficio di un editore che gli stava dicendo: non ti pubblichiamo il libro perché secondo noi non vende. E un mese dopo il padrone di casa di Lemkin era in affitto, ha informato un amico di Lemkin che curava le cose che lui entro 30 giorni voleva la stanza indietro. Quindi questo amico ha raccolto le carte com'erano. Quindi ci sarebbe ancora tanto da scoprire, tanti buchi che mancano in questo. Quindi dicevo, i paesi arabi, i paesi sudamericani, e Lemkin si interroga perché il mondo arabo mi ha così aiutato. E poi ha detto, beh, ma in fondo loro il colonialismo ce l'avevano avuto sul collo fin lì. E le donne? C'è un numero molto alto di donne, alcune diplomatiche, i cui nomi non dicono niente, però Gabriela Mistral, soprattutto Pearl Buck, 2 scrittrici premio Nobel. Pearl Buck diventa veramente un attivista. Ci sono alcuni manifesti che lei scrive e poi fa girare tra gli scrittori, e in uno è anche carino che dice a Lemkin: guarda, vedi se ti va bene, l'ho battuto a macchina io perché di sabato la mia segretaria non lavora. Che dà proprio l'idea del lavoro frenetico, delle cose da fare, perché bisogna far pressione da opinione pubblica dal basso sul mondo politico, come si direbbe oggi. Ed è quel diplomatico arabo che dicevo, Beiriad, che si presenta lui a Lemkin e gli dice: io voglio darti una mano, a fare un discorso inoppugnabile quando c'è un tentativo di sostituire la parola genocidio, che è un neologismo, cioè, perché è un neologismo? Chiamiamolo massacro. E lui prende la parola e dice: no, perché qualunque sinonimo può essere applicato al mondo animale. Il grande massacro dei gatti, lo sterminio dei cani randagi. E invece un evento così grave deve avere un termine che non può dare adito a equivoci, perché il paragone col mondo animale immediatamente depotenzierebbe questo concetto. E dunque deve essere una parola mai sentita prima e che deve contenere al proprio interno esplicitamente un richiamo al genere umano. Davanti a questo argomento nessuno ha il coraggio di obiettare, perché io francamente, anche facendo l'avvocato del diavolo, non trovo un'obiezione. Il problema del colonialismo, che Lemkin continua a porsi, e entrando in contatto con, ecco, negli ultimi anni ha lavorato molto con un diplomatico nato a Khan Yunis, che nel 48 rappresentava i paesi arabi, quindi credo di aver capito che i vari paesi arabi che contornano l'Arabia Saudita avessero un'unica rappresentanza, e poi invece diventa il delegato della Giordania, e nel 67 farà un discorso molto duro rispondendo al delegato americano che gli aveva detto: tu fai discorsi troppo, usi parole pesanti, e lui risponde: chissà se ha letto Brecht, ma per quello che sono e per da dove vengo e quello che sta succedendo, io non posso usare parole gentili. Voi americani nel Vietnam e Israele con la Nakba, okay, questo per me è genocidio. Lemkin si occupa soprattutto del genocidio in Algeria, perché rientra in quasi tutte le fattispecie elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite, e lo fa nel momento in cui stanno dicendo la stessa cosa Jean-Paul Sartre, ad esempio, sta nascendo il tribunale Russell. Tra le carte di Lemkin sono stati trovati dei volantini del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino. Lo fa nel momento in cui escono i libri di César e di Fanon, in cui questo legame quindi diventa l'ordine del giorno. Lo fa nel momento in cui Lemkin si rende conto di cos'è la questione razziale negli Stati Uniti, perché Lemkin per sua stessa missione non aveva capito la profondità e la gravità della segregazione razziale negli Stati Uniti. Io ho l'impressione che sia stata una lettera, però qui bisognerebbe trovare la risposta di Lemkin, di un attivista di colore che gli scrive dicendo: vedi, tu sei l'esempio di quanto è grave il problema, perché se persino tu non capisci la condizione di noi neri, che abbiamo pubblicato un pamphlet intitolato Noi lo chiamiamo genocidio, allora vuol dire che è esattamente così grave. Tempo, due anni dopo, Lemkin ragiona a distanza, da pari a pari, con Ruth Benedict sui presupposti antropologici della discriminazione. Aveva una capacità di acquisire nozioni, di approfondirle, spaventosa sotto questo punto di vista. E quindi c'è un memorandum di questo diplomatico Al-Farra, memorandum alle Nazioni Unite, di cui io ho trovato una copia nell'archivio Lemkin. Questa copia è annotata a matita da Lemkin, il che mi fa pensare a due possibilità. Ma dovrei poter visionare anche la copia ufficiale alle Nazioni Unite. È una prima stesura e Lemkin ha annotato le correzioni, quindi è una prima bozza. Lemkin l'ha studiata per poterla citare nei suoi scritti, perché comunque ci sono scritti di Lemkin che sono quasi delle parafrasi, se non dei ritagli, da questo testo, il che fa pensare che questi due autori abbiano lavorato davvero a quattro mani. E del resto, quando Lemkin muore ed è praticamente sconosciuto, al suo funerale ci sono il console israeliano di New York, non un diplomatico, il semplice console, l'ambasciatore della Corea del Sud, e non ho capito perché. Io mi sono ripercorso, ho fatto la ricerca, cosa hanno detto i coreani durante il dibattito, perché sono gli unici che sanno che è morto uno che è stato importante, per cui è giusto che un ambasciatore ci vada. È il rappresentante a New York del Fronte Nazionale di Liberazione dell'Algeria. Sono le uniche persone che sono al funerale di Lemkin, perché quando muore è sconosciuto. È quando oggi si dice: ma non si può collegare il colonialismo di insediamento al genocidio, si sta semplicemente nel fare questo collegamento del colonialismo di insediamento. Tra l'altro Lemkin usa esplicitamente la parola colonialismo, non usa tanto settlement o settler, che è una è una parola che significa quello che si insedia, non quello che colonizza. Okay? Colonisation è il termine che si usa nella diplomazia francese, ed è un termine molto più preciso, perché esiste in Inghilterra, esiste un Act of Settlement, che è semplicemente quel decreto di Guglielmo d'Orange, che stabilisce che i cattolici non possono diventare re d'Inghilterra, cioè non possono insediarsi sul trono d'Inghilterra. È un termine che non dice la gravità di quello di cui si vuol parlare. Ecco, anche questo dibattito in realtà era un dibattito che, ripeto, nel momento in cui Lemkin stava lavorando a tre libri contemporaneamente, Fanon pubblica il suo libro, Aimé Césaire pubblica il suo libro, Sartre è un attivista sulla questione algerina e accanto a Sartre tanti altri, ma io cito Sartre perché delle cose di Sartre sono nelle cartelline di Lemkin, e in quel momento quel dibattito c'era. Per cui, poi possiamo anche dire no, secondo me il collegamento non ci sta oggi, ma non possiamo dire che questo collegamento è azzardato, improprio, che non ha una storia, che non ha una giurisprudenza. Sì. Tutto questo lavoro che fa Lemkin, questo straordinario lavoro... Scusate, perché poi ci sono anche dei nomi. Nella lobby di Lemkin ci sono due personaggi tragici. Il primo è Masaryk, l'unico ministro socialista del governo cecoslovacco, che è quello che Lemkin manda da Wyszynski, dandogli anche delle dritte. Non è chiaro se Masaryk usa le parole di Lemkin, però riesce a convincere Wyszynski e ad avere quindi il voto dell'Unione Sovietica. E Masaryk viene, credo si possa dire che è stato defenestrato e quindi viene assassinato, mentre nella fase finale dell'approvazione. Fase finale dell'approvazione che vede anche l'assassino di Gandhi, un altro personaggio importante che aveva appoggiato Lemkin, era un personaggio di rilievo della Croce Rossa e aveva mosso la Croce Rossa in questo senso, il conte Folke Bernadotte, discendente di quel generale che Napoleone mise come re di Svezia, che nel 1945 come capo della Croce Rossa svedese era riuscito a farsi consegnare da Himmler nell'aprile 1945 22.000 ebrei fuoriusciti dai campi di concentramento e salvati, personaggio che appoggia in toto la proposta di Lemkin. Ci sono delle lettere in cui lui spende la sua parola, personaggio che l'ONU manda nel 1948 in Palestina con che elabora una proposta di pace e che viene assassinato dall'Irgun. Quindi, mentre Lemkin è disposto a fare compromessi, Lemkin vede cadere Masaryk, Bernadotte, Gandhi. L'India non è un grande sponsor, però la morte di Gandhi significa non c'è alcuna soluzione pacifica, si va al genocidio, perché Gandhi viene ucciso dai suoi, dai fanatici hindù, quelli che oggi sono al potere, tra l'altro. E in questa situazione Lemkin sceglie di accettare i compromessi. Sì. No, Lemkin è circondato di morte, a cominciare da quella di praticamente tutta la sua famiglia, perché dobbiamo anche dire una cosa, tutto questo incredibile lavoro di tessitura di relazioni, di precisazioni teoriche, di dottrina giuridica, di diplomazia dal basso, questo lavoro incredibile, Lemkin lo fa da esule, a lungo senza avere alcuna notizia della sua famiglia, poi scoprirà che è stata annichilita la sua famiglia, appunto da Axis Rule, appunto dal dominio dell'asse in Europa orientale, e lo fa in povertà, perché Lemkin per tutto questo periodo, cioè anzi fino alla fine, rimane in una situazione di miseria, cioè che è stupefacente, cioè la sproporzione, cioè proprio la sproporzione, l'incoerenza che uno nota tra l'importanza che ha la sua figura all'interno di questo mondo di diplomazia, di convenzioni, e il modo in cui vive, praticamente muore di autoconsunzione, in pratica si sacrifica sul tavolo da lavoro, praticamente mangia poco e male, trascura tutti i segnali che il suo corpo gli dà sul fatto che, cioè, deve farsi vedere, insomma, che si sta veramente autodistruggendo, e niente, ma è questo fuoco che lo brucia, no? Di riuscire a fare i conti, a dare gli strumenti per fare i conti con questi crimini, Cioè, è veramente impressionante, devo dire, questa cosa qua. Io ignoravo quanto male poveretto avesse vissuto Lemkin. E infatti poi, come si diceva, al suo funerale ci vanno in tre, di cui uno non si capisce neanche se fosse arrivato per caso. Il coreano probabilmente, chi lo sa, cioè, magari era uno a cui piaceva andare ai funerali. Ma ecco, è impressionante la discrasia tra i due protagonisti di questo libro, il concetto di genocidio e il suo coniatore. Il suo coniatore è come se il secondo si fosse sacrificato al primo. Sì, c'è una lettera molto triste di cui Lemkin ha un incarico provvisorio a Yale, si accontenta di piccoli incarichi fino al 49. Poi fondamentalmente viene messo alla porta perché per ragioni di bilancio, perché Lemkin fa lezione, però usa poi il suo tempo, usa il telefono, usa il materiale di cancelleria, insomma è un costo. Lemkin, tu, alla gomma, sì, c'è uno scambio di lettere, noi non abbiamo le lettere di Lemkin, ma abbiamo le risposte a Oppenheimer, in cui Lemkin dice, dammi un lavoro. È Oppenheimer, questo, ripeto, è veramente triste perché gli argomenti sono tristi. Fondamentalmente gli dice, ma qui a Yale non c'è neanche un dipartimento di diritto alla sua altezza, cosa viene a fare qui da noi? Trova qualche altra università con giuristi più importanti. E poi ci stanno tagliando i fondi, abbiamo dovuto chiudere degli spazi, persino noi che facciamo la ricerca, che può darsi anche che sia vero. Però, ripeto, molti di questi... Jan Karsh non ha rubato niente a nessuno, ma ha avuto una cattedra. Come si faceva ad avere una cattedra in quel momento? Beh, vedendo dal mondo, dall'est europea, cortina di ferro, bastava che tu un paio di volte l'anno facessi delle conferenze in cui parlavi male dell'uso del mondo comunista. Lemkin non era neanche comunista e non aveva problemi a parlare male, perché è stato uno dei primi a dire l'Holodomor per me è un genocidio, ed è stato ritrovato un suo testo su questo, in cui ricorrono proprio tutte le sue specifiche. In questo è straordinario, non c'è evento genocidiario di cui si sia occupato nel quale lui non sottolinei tutte le specifiche una per una. E lui non si è minimamente preoccupato di trovarsi un qualche posto, per cui a un certo punto l'albergo in cui sta lo butta fuori, ma si tiene i vestiti perché lui non ha pagato il conto. Ecco, e quando muore, Lemkin era già al terzo insulto cardiaco. Le altre volte, ricoverati in ospedale, tempo due giorni, la stanza d'ospedale diventa il suo ufficio di lavoro, con segretari che vanno, vengono, telefonate. E altri pazienti che vanno da lui perché è bravo a raccontare storie. Esatto. Lemkin non ha avuto un posto all'ONU. L'ONU sta nascendo, c'è questo palazzo dell'ONU che è mezzo vuoto perché... le delegazioni non arrivano tutte immediatamente. Lemkin, quando trova un ufficio vuoto, si installa, mette la targhetta col suo nome, si prende i tavoli e sta lì finché non arrivano. Salve, noi saremmo in Guatemala, sarebbe il nostro ufficio, prego. Si sposta in un altro, vaga, tutti sanno che c'è, tutti cercano, quando lo vedono arrivare si buttano negli uffici per non incontrarlo, perché Lemkin ha una cartelletta con articoli che dimostrano che è stato genocidio, con suoi scritti, con una petizione, è un monomaniaco. Ecco, io nella prima pagina lo paragono a Geo Yotz, quel personaggio, Bassani. Scrivo che è l'unico superstite, nel senso che Bassani lo presenta come se fosse l'unico a tornare, in realtà ne sono tornati altri tre, però... nella Ferrara, che vuol dimenticare, tanto la guerra è finita, c'è questo qui che si veste male. Lemkin si vestiva male perché aveva un solo vestito buono e se lo teneva per le occasioni buone, quindi aveva la giacca consumata, e c'è questo qui vestito male, monomaniaco, la cui presenza serve a ricordare che è successo qualcosa che tutti quanti vogliono dimenticare. Ecco, da questo punto di vista, sul piano umano è una cosa straordinaria, anche perché sì, appunto, lui ha perso 49 familiari, perché quando la Polonia viene invasa tutta la sua famiglia è nella parte occupata dalla Russia e i russi tutto sommato non fanno grossi problemi, per cui loro stanno bene lì. È Lemkin che è a Varsavia, che deve saltare su un treno, poi il treno viene bombardato e quindi fugge a piedi, riesce alla fine fortunatamente ad arrivare in Svezia, dove ci sono dei ministri che lo conoscono per nome per la sua attività diplomatica negli anni 30, e lì comincia già a lavorare. Poi quando i tedeschi con l'operazione Barbarossa sfondano il fronte russo, l'intera sua famiglia è risucchiata e scompare. Si salva solo un fratello che aveva accettato un posto di lavoro a Mosca, e quindi con la moglie e il figlio si sposta e sopravvive, perché a Mosca i tedeschi non sono arrivati. Quindi anche questo peso enorme di aver perso tutta la sua famiglia è davvero un ebreo errante. Gli dice: siamo diventati come quell'ebreo errante che ci raccontavamo nelle storie della nostra vita. Lo Giro, avete inventato una nuova categoria stasera, che è geniocidio. Geniocidio. Quello che stavate raccontando ultimamente. Lui scherzando, la seconda volta che prende un infarto, dice: la diagnosi è chiara, mi sono ammalato di geniocidite. Vedi, Mocca, allora, cioè, dammi un secondo che voglio fare, non è un'obiezione, è un'osservazione anche un po' antipatica di carattere epistemologico. Voglio dire bene. Allora, comincio a dire così: ci sono i nomi, ci sono i concetti e ci sono le cose. Prova a dirlo come pare a me. La famosa domanda con cui si inaugura la filosofia occidentale, quella di Socrate, ti esti, cos'è qualche cosa? È una domanda giuridica. Non a caso avete parlato di forme, e la definizione è una necessità giuridica, ma le cose non sono definibili. Sono definibili nel senso che convenzionalmente si definiscono, ma se io definisco il bicchiere un contenitore di liquido, bene, poi te lo spacco in testa, è un contenitore di liquido, è un'altra cosa. Le cose possono essere altre dalle parole, dai concetti che le definiscono. E per quello che la battuta che ti facevo prima, a proposito della Palestina, chiedimo a loro che cazzo è un genocidio, una strage, un massacro, perché quella realtà lì, nel divenire e in tutte le sfumature del mondo, naturalmente il concetto è necessario dal punto di vista giuridico, perché bisogna mettersi d'accordo. Però tendo a dire che c'è in qualche modo la libertà, non di carattere formale, ma di carattere esistenziale, di pensare poi quello che vuoi rispetto a dei disastri che chiami come vuoi, ma sono una vergogna dell'umanità. Accenno solo al finale, che la cosa che avevo detto finale, a quello che io ho deciso che sia la fine, non c'è un finale. No, che quando giustamente tu ti chiedevi qual è il fondamento del cuore, della giustizia che è nel cuore, che non è un fondamento giuridico formalmente, fare riferimento a qualche cosa in qualche modo in divenire, variabile, eccetera, che non è costretto al concetto che in qualche modo lo inquadra. E quindi sarei anche un po', questo è un lavoro bellissimo, complimenti, bravo, ci vuole anche due bei maroni a seguire tutti i documenti nelle scatole, non ce n'è uno su 2000, però devi trovare te quello lì, eccetera, fatto ti complimenti, sarei in qualche modo che questo dibattito alla fine in qualche modo tornasse alle cose. Nel senso, cioè, dice, però un pezzo di cultura l'hanno lasciato, anche se ne hanno distrutte delle parti. Diciamo così, ci sono gli assassini e le vittime, e questo prende una varietà enorme di... Ma non è un'obiezione, era proprio un'osservazione, anche forse un po' da cassone, non lo so. Allora, vabbè, è bello che posso citarmi, però... Sì, nel senso, no, ma nel senso che ci sono cose, non per rispondere, perché ecco, un'obiezione come la tua, così... Un'osservazione come la tua, sì, fatta così bene, in giro non l'ho trovata. Però nel dover parlare di queste cose, sull'ultimo testo che ho scritto su Jump, in cui ho spiegato come e perché quello che forse in questo momento è il più importante studioso mondiale come storico del genocidio, Homer Barto, ci ha messo due anni per dire la parola genocidio e poteva anche non dirla, secondo me, no? Però in che modo ci è arrivato, eccetera, per rispondere a un'obiezione del cazzo, ci ha messo due, ci arriva solo adesso. No, non ci arriva solo adesso. Tormentatissimo. Esatto, poi siete voi che non sapete che cosa lui ha scritto già dall'ottobre del 23. Ma appunto, ma in Italia non si sa. È un altro di cui sono stati tradotti soltanto due libri militari. Esatto. Due. Ma tutti e due di argomento militare. Però lui ha scritto Anatomia di un genocidio, che è il genocidio raccontato in un paesino minuscolo della Polonia. È un libro importante quanto il libro sulla battaglia di Bovin per la storiografia medievale. In Italia non è tradotto. Allora, io ho premesso che le parole non sono cose e non sono neanche nomi di cose, ma sono nomi di immagini mentali che rimontano ad esperienze. Ed è per questo che, ad esempio, io non potrei mai rimproverare alla senatrice Segre di non usare questa parola, semplicemente perché la sua esperienza del genocidio io non la posso provare, al massimo la posso leggere su una pagina e mi posso commuovere, ma non è la stessa cosa. Questo per dire, ma dico anche un'altra cosa, a Mantova vado a sentire il dibattito tra Paola Caridi, Gad Lerner e Omer Al-Akkad, il cui libro mi ha tolto la vita, come tante cose, ma è veramente una soglia molto alta quel libro lì. E alla fine un blogger locale, insomma, cerca di farsi dire da Paola Caridi una critica a Gad Lerner, perché Gad Lerner la parola genocidio non la dice, benché Gad Lerner stia facendo un lavoro enorme, sì, sì, che gli ha provocato fiumi di odio. E a un certo punto Paola Caridi al terzo tentativo gli risponde: perché per me Gaza è libertà e Gad Lerner è libero di usare le parole che crede. E quindi questa, intanto, per dire che la tua osservazione la condivido. Dopodiché, va bene, vai via, no, resta qua. Dopodiché però, siccome ci sono le cose, ecco, il genocidio è un processo che interrompe un processo. Il processo che interrompe è la formazione di un'identità, perché, e questa è una cosa che io trovo straordinaria, visto da dove vengo, per Lemkin le identità non sono immobili, neanche le identità dei popoli. In un libro autobiografico, De Gaulle spara alla grossa: la Francia è un'idea eterna nella mente di Dio. Io purtroppo quel libro non ce l'ho a mano, non so se è De Gaulle che ha copiato da Spartacus o Kubrick, perché fanno dire a Pompeo: Roma è un'idea eterna nella mente degli dei. No, l'identità è un processo che si forma per fusione, ed è straordinario il fatto che Lemkin arriva a questo avendo letto appena uscito La vita delle forme di Phocion, libro carissimo a Benjamin tra l'altro, che è un libro in cui si parla di forme artistiche, ma si parla dello spirito che crea le forme. E qui tra l'altro abbiamo anche un problema: esprit in francese e mind, che lo traduce in inglese, sono termini che non si traducono in italiano, perché sia mente che spirito sono semanticamente più poveri. Quindi cercate di capirmi quando dico lo spirito dei popoli. Geist. È una cosa, sì, anche Geist, siamo noi che abbiamo un'accezione più ristretta o forse meno elevata. Tant'è vero che usa anche Geist, tra l'altro. Cioè, ma abbiamo sempre, siamo sempre d'accordo. Io, cioè, sì, tu e Lemkin. Non c'è neanche gusto. E l'altro autore che Lemkin cita, cosa che mi ha commosso, perché sono figlio di un vecchio mazziniano che poi è diventato socialista, ma non gli potevi parlare male di Mazzini. Lui poteva parlare male di Mazzini, ma non glielo. Non tu. Non tu. No. Ci aveva in parte anche ragione. È degli scritti in cui Mazzini stesso dice che lo spirito dei popoli è qualcosa che si fonde, i popoli nascono e si creano. Ecco perché il genocidio culturale è importante, perché col genocidio culturale non significa solo buttare giù una biblioteca, distruggere qualcosa. Voi vi ricordate forse che qual è quella città? A Dubrovnik fu distrutta una biblioteca artistica straordinaria. Ma perché tirarono sulla biblioteca? Perché era l'identità dei musulmani di Bosnia. significa distruggere quegli elementi che consentono a uno spirito di ricrearsi continuamente, ovvero diffondersi tra di loro. Questo intende Lemkin quando dice che il genocidio ha per oggetto un gruppo qualunque. Se non avesse perso 49 parenti su 52, sembrerebbe macabra la battuta che fa Lemkin, al limite anche un gruppo di giocatori di carte. Cioè qualunque gruppo di individui che trovano una ragione per fondersi in un gruppo. Sembra il gruppo in fusione di cui parla Sartre. Secondo me, appunto, è Fossillon, e dietro Fossillon c'è Bergson. Questo processo, quindi, che viene interrotto da un processo. Il genocidio è un processo, in termini pratici. E qui c'è un istituto Lemkin che monitora queste cose. C'è uno studioso come Gregory Stanton che ha elaborato, ce ne sono anche altre molto buone, io mi limito a citare questa, nel libro ne cito altro, i 10 step del genocidio, che, attenzione, non sono necessariamente in sequenza o consecutivi, possono anche coesistere. Sincronici possono essere. Ecco, allora questi 10 step sono, che servono a ricordarci che la Convenzione non parla solo di repressione ma di prevenzione. Ciascuno di questi step è una lampadina che si accende per segnalare che si sta compiendo un passo verso un genocidio. Questo per dire, attenzione, se qualcuno obietta, per me non è genocidio, però deve avere l'onestà di riconoscere, perché queste cose venivano dette anche prima dagli osservatori internazionali tipo l'Istituto Lemkin, che però tutto questo allude a un genocidio inteso come soluzione finale effettiva, che a questo punto è passibile di accadere. Allora, i 10 passi sono la classificazione, la simbolizzazione, la discriminazione e la disumanizzazione, e questi quattro passi costituiscono quello che in lingua inglese si chiama othering, l'alterità intesa come qualcosa che è proprio diverso da me, che non può esistere. Sì, l'alterizzazione. È terribile l'alterizzazione. Abbiamo dei problemi terminologici. Anche othering è brutto. È orribile. Sì, anche è più brutto, però si usa. Ok, l'organizzazione. Quando gruppi d'oro, eserciti e milizie si organizzano, la polarizzazione, la preparazione, quando i leader elaborano piani per l'uccisione e la deportazione e i responsabili vengono addestrati armati, la persecuzione, il loro e lo sterminio, e il decimo step è la negazione. Allora, usare genocidio in senso giuridico significa anche però tenere presente che il genocidio è ciò che consegue a questi passi, oppure pulizia etnica non è un crimine internazionale, non è codificato come crimine internazionale. Perché non lo è? Perché a seconda di come accade, Portinaro dice che è proprio una zona grigia la pulizia etnica, è o l'ultimo passo oltre il quale non può che esserci il genocidio, o il primo passo di un genocidio già iniziato. Dove noi troviamo pulizia etnica, concetto che nasce con le guerre di Jugoslavia, tant'è vero che i primi testi vengono da studiosi jugoslavi. Questa locuzione non c'è nel dibattito delle Nazioni Unite. Quella cosa lì che abbiamo visto in Jugoslavia è, a seconda di come accade, o l'ultimo segnale d'allarme, dopo non bastano i sudari per i cadaveri, o il fatto che un genocidio è già iniziato. E dire che un processo significa dire che può essere arrestato. Tra l'altro, Omer Barton sperava che ci fosse una soluzione possibile, ma una delle ragioni per cui Omer Barton non voleva dire questa parola è una ragione tragica, perché Barton dice: io da storico so che il genocidio finisce nella storia soltanto in due modi, o perché completi il lavoro, o perché una forza militare avversa interviene e ti sconfigge militarmente impedendogli. Nessun genocidio, una volta iniziato, è mai finito. Ecco perché per lui era il fatto che lui abbia detto questo significa che lui in questo momento non vede a questo punto altra alternativa se non il fatto che il genocidio si sta compiendo. Per inciso, Omer Bartov sostiene una posizione che io sto seguendo da alcuni mesi, che è quella di una terra per tutti, non due stati, due popoli. posizione che ha una sua ragionevolezza nel dire in questo momento è chiaro che questa cosa non è attuabile, ma in questo momento non c'è niente di attuabile. E allora se non puoi che pensare soltanto per tempi quantomeno di medio se non di lungo periodo, cominciamo a ragionare su questo. Però chi sostiene questa posizione sta facendo un lavoro di controinformazione straordinario. C'è un giornale in lingua ebraica, Local Call, i cui articoli sono tradotti però da più 972 Magazine e da Haaretz, che escono in inglese. Questi tre giornali, io stesso ho tradotto alcuni di questi articoli, quelli che escono in inglese, e li ho pubblicati sul mio blog. Questi tre giornali stanno facendo un lavoro di controinformazione che ha come unica pietra di paragone le cose che venivano fatte negli anni 70. Questi giornali stanno facendo qualcosa che ricorda l'inchiesta alla strage di Stato, in questo in condizioni, potete immaginare quali siano. Quindi non si tratta di gente che sta in cima al pero a sognare, è gente che giorno per giorno corre anche dei pericoli fisici concreti, a parte la chiusura dei giornali. Haaretz è sull'orlo della chiusura. C'è una legge che se venisse approvata consiglierebbe al governo di chiudere i giornali. E però lo stanno facendo, il che vuol dire che c'è un'opinione pubblica israeliana che sarà minoritaria, ma c'è. E questo va ricordato. Anna Foa diceva che in realtà la parola genocidio è stata utilizzata dai pacifisti israeliani, da quelli contrari, prima ancora che si affermasse in Italia. E questo può avere un qualche significato. Quindi, ecco, c'è anche un uso dalla parte, tra virgolette, giusta, sbagliato della parola genocidio. Non puoi usare questa parola come una bandiera o come una vanga per colpire l'avversario, né in un senso né in un altro. Ecco perché abbiamo bisogno, ripeto, se parliamo di cose concrete, di una stella polare, che è quella giuridica, che allude a un'eventuale soluzione politica. Dopodiché, io sono il primo a non pretendere che nessuno debba pronunciare questa parola senza sentirla, perché io stesso sono consapevole del fatto che questa parola è un'estrema razio. Però io la pronuncio. Dio, siccome avete mezzo chiesto di intervenire, non voglio fare proprio. Ma non c'è bisogno di chiedertelo, aspetta. Dopo che me l'hanno chiesto, mi dico non c'è bisogno di chiedere, perché sarei intervenuto anche se non me l'avesse chiesto. Sei anche già intervenuto. Siete due stronzi, non dico più niente. No, banalmente, la remigration, questa è pulizia etnica. Sì. Non c'è nessun morto, nessuna sede, però questa è pulizia etnica. Tu pulisci la tua, esatto, popolazione. Sì. E questo serve a dire quanto sia grave. Assolutamente. E dico altre due cose che poi mi interessano. Palestine will be free from the river to the sea. È una stronzata. Io ho proposto ai ragazzi: Palestinians will be free from the river to the sea. I palestinesi saranno liberi dal mare al fiume, perché sennò prevedi che salti Israele, che non è accettabile. Se dici Palestine will be free. Era così nel 38, eh? Questa cosa è importante perché fa riferimento la prima volta che è stato detto proprio al concetto che ha espresso lui, cioè uno Stato, due popoli. È lì che viene utilizzato questo che poi è divenuto una terra, due popoli. La prima volta. Tanto è vero che infatti tanto è vero sono convinto, sì, che faccio proprio il fighetto, perché andiamo alle radici bibliche etimologiche di Israele, perché col cazzo, lasciatemelo dire, che è la terra degli israeliani. Israele, cioè El, che è uno dei nomi di Dio assieme a Adonai, Yahweh, eccetera eccetera. Israele, ci sono delle riflessioni, diciamo, filologiche, sono due ipotesi, il verbo Sara o il verbo Sara con l'H, che vuol dire è la terra di Dio, o in un altro è la terra di chi ha combattuto Dio, ma non è la terra di questi qua. Tanto è vero che gli israeliani ortodossi, radicali, loro sostengono che non c'è un diritto divino per l'occupazione della fa, e quindi sarebbe, essendo la terra di Dio, la terra di tutti. E quindi certamente che si dovrebbe aprire, però nelle manifestazioni tu dai adito quando dici Palestine will be free from the river to the sea, il fatto che tu vuoi far saltare non due stati in un territorio, ma uno stato che deve saltare, mentre invece la mia proposta sono affezionato perché dice Palestinians will be free, i palestinesi saranno liberi dal mare a dove vogliono, eccetera eccetera. Vabbè, e poi, ma questo è proprio il significato che danno nel 36 a questo slogan, okay. Perché slogan nasce nel 36. Sì, certo. Allora, dici ti dico come le... Allora, io intanto dico una cosa che è ancora più avanzata, che fa riferimento al fatto che Gaza è anche il nome del sentimento di ingiustizia, non solo per quello che sta succedendo nella cosiddetta striscia di Gaza, okay? Gaza ha coalizzato un sentimento generale di ingiustizia che ha, per fortuna, tracimato qualunque limitazione del politicamente corretto, del partito, dell'alleanza, una pubblica opinione che si è presa le strade, le piazze. Il 22 settembre, manifestazioni oceaniche nonostante l'assenza sindacati e partiti, e il 3 ottobre, dove i sindacati e i partiti hanno accettato di stare dentro i cortei ma dietro gli striscioni altrui, ecco, è un'opinione pubblica finalmente libera. Allora io dico non solo che tutti i popoli dovrebbero essere liberi da qualunque forma di oppressione lungo tutti i fiumi, al confine con tutti i mari e con tutti i monti, e ho detto, quando mi sono trovato ad anche a me chiedono: Girolamo, fai l'intervento tu? Tu sai bene che in certe situazioni, soprattutto quando ti ritrovi una situazione imprevista e la devi gestire, serve che vengano, certo, che parlino, si parli di certe cose in un certo modo. Ho detto: non dobbiamo accontentarci di niente di meno, nel senso che questo spirito di giustizia non deve finire, neanche se per assurdo, e questo non succede, domani viene fatta una pace giusta, qualunque cosa voglia dire. Okay? Dopodiché, appunto, che ci sia un territorio, uno Stato in cui gli ebrei possono stare, e che questo sia l'unico modo di in cui gli ebrei possono avere uno Stato, sono due cose che non hanno alcun rapporto tra di loro. So che storicamente si è data questa cosa e che non la smonti domani, che non puoi metterli attorno a un tavolino e spiegare le cose, però proprio perché dal punto di vista concreto in questo momento non ci sono alternative, non c'è nulla di concreto che si possa fare, perché non c'è una forza che si possa fare, viva Dio, non c'è neanche il presidente degli Stati Uniti dell'Unione Sovietica che alza il telefono e dice ai suoi alleati: adesso la finita entro mezzanotte, come succedeva una volta. Proprio per questo è giusto porsi degli orizzonti più avanzati, e cioè una terra per tutti, non uno Stato per tutti, che è già una cosa diversa, significa pensare che tutti i popoli, e oltre agli ebrei e agli arabo trattino palestinesi, cioè agli arabi che si hanno sviluppato un'identità nazionale che 100 anni fa non avevano, ma neanche gli ebrei avevano un'identità nazionale israeliana 100 anni fa, è stato un processo. Poi ci sono anche gli armeni, i copti, gli arabo cattolici, i drusi, i beduini, che anche loro avrebbero diritto ad avere una terra senza alcuna forma di oppressione, e che quindi, che sia da quel fiume a quel mare, sia lungo tutto il fiume e tutti i mari, tutti i popoli possano essere liberi, è un orizzonte che possiamo porci e che, almeno per come la vedo io e per come la penso io, non comporta necessariamente la distruzione dell'uno o dell'altro, ma comporta il posto il problema di come arrivare, ripeto, dei beduini non parla nessuno. Allora, i beduini, che adesso si muovono con i pick-up e non con i cammelli, ma sono sempre rimasti quelli, il 7-8 ottobre hanno utilizzato le loro reti, per reti c'è anche il fatto che loro vedono strade dove altri vedono il deserto, per salvare dei ragazzi scappati dal festival piuttosto che dal kibbutz, hanno salvato vite. Ma quando sono partiti i razzi da Gaza contro Israele, sono andati anche su di loro, Israele non ha attivato lo scudo di protezione perché non le considera dei loro, e loro non possono possedere armi. per difendersi, eppure sono andati in situazioni in cui hanno rischiato la vita perché non avevano armi. Ecco, bisognerebbe ricordarsi che sarà una minoranza, ma esistono anche dei popoli che hanno manifestato questa cultura. Ho detto, noi stiamo bene su questa terra, ma non siamo ebrei, non siamo di Hamas, non siamo di quello di qua. Noi siamo quello che siamo sempre stati, per inciso, noi qui stiamo qui da millenni. E dopodiché, sì, tu hai ragione a dire la filologia, io da spinozista qual te potrei ricordare che la Torah è un libro in cui non ci sono le vocali, le puntazioni, non c'è la stragrande maggioranza di tempi verbali, che Spinoza ha scritto un trattato tale per cui ha rischiato di essere il primo caso di eretico messo a rogo nell'Olanda del 600. Lo sarebbe, ecco, per dire, non potete fondare una politica e una storia su un libro così. O per dirla come Luciano Canfora, se loro pensano di poter fare quello che stanno facendo utilizzando la Bibbia come base, allora noi possiamo invadere la Francia sulla base del debello gallico. Okay? Siamo d'accordo, grazie. Sì, fate perfino schifo da quanto siete d'accordo, cioè, siete sempre d'accordo. Ma te sei antipaticissimo. Siete, allora, bello che questa roba va tutta online, è tutto registrato. No. Tra l'altro mi voglio collegare alla questione epistemologica. La mia è una domanda relativa alla storicità del concetto. Cioè, mi domando se dal punto di vista retrospettivo si può utilizzare il termine genocidio per descrivere fenomeni che sono accaduti nel passato. Perché come dici tu è un termine in moto, no? Un termine che continua, che è permanente, che è performante, no? E quindi mi domando, si può usare questo termine in maniera leggera, non voglio dire leggera, però con leggerezza nel passato storico e attuale dell'umanità? E collegandomi alla questione epistemologica di prima, riferita alle cose, al mondo, mi domando se il termine, il concetto di per sé genocidio, non abbia questo vincolo di antropocentrismo che si porta con sé, che comunque premia l'umanità rispetto a quell'altro, no? Quell'othering che dicevate prima, perché di solito si utilizza anche il termine ecocidio, però perché utilizzare due termini differenti quando l'umanità è l'altro in termini ecosistemici? Cioè, perché dobbiamo fare questo distinguo, e questa è la radice filosofica delle nostre religioni, delle nostre spiritualità. Ok, mi dici il tuo nome? Marco. Domande bellissime. Sì. Di cui ci sono le risposte, ci sono però, e te le dà lo stesso Lemkin. Devi compare vivo, però. No, adesso te le do io. No, scusate, io sono contento di queste sollecitazioni, perché io so, sarebbe complicato spiegare. Insomma, io poi non amo molto parlare dei cazzi miei, però avete presente Jack Torrance in Shining, che a un certo punto comincia a scrive, e poi si scopre che ha scritto il Mattia. Okay. Ecco, io ho fatto una cosa del genere, poi per fortuna ho scoperto che quello che avevo scritto era un libro che sta in piedi da solo, cioè che poi sono, ho una casa editrice molto severa in termini di editing, in termini di tutto, e questo è giusto che si dica, perché ha passato dei filtri a maglie veramente stretti questo libro, però sono tutte questioni che mi sono posto o che ho trovato in Lemkin. Allora, Lemkin riteneva di sì, uno dei libri a cui stava lavorando significava che accumulava materiali e cercava un finanziamento, una borsa di studio, era una gigantesca storia del genocidio. Io ho riportato l'elenco dei genocidi nella storia, quali li ha classificati Lemkin. Peraltro la sua classificazione non ne comprende alcuni che lui nomina. Lemkin va indietro sino al mondo antico, sino agli Assiri. Okay? Per cui Lemkin ti direbbe di sì, una volta che il concetto è stato chiarito, lui dice il genocidio è un... l'ho messo in esergo, è uno dei due... eserga del libro, l'altra è una frase di Spinoza che Lemkin parafrasa, e cioè ho cercato con cura di non deridere le azioni umane, di non compiangere né disprezzarle, ma di comprenderle. In una lettera nel 48, luglio 48, quindi alle soglie dell'approvazione, il genocidio non è un fatto eccezionale, ma ricorre con una certa frequenza all'interno delle relazioni fra gruppi umani così come l'omicidio nelle relazioni fra individui. E questo vuol dire che si può dire del genocidio quello che il mio caro amico e maestro Toni Negri diceva della moltitudine: esiste un genocidio ontologico, che è una modalità di azione, ed è quella. E poi ci sono i genocidi storici, e quelli sono uno diverso dall'altro. E vuoi dirmi che la Shoah è un'unicità? Non sto neanche a sprecare un ragionamento mio. Pierpaolo Portinaro, che sostiene che non c'è stato un solo genocidio nella storia, ma stiamo parlando di anni addietro, poi dice: però la modalità di persecuzione degli ebrei nella storia, questo è un unicum che dà una unicità. Questa unicità non vuol dire che in nome di questa unicità si debbano negare tutti quanti gli altri. Stiamo parlando del principale allievo di Norberto Bobbio, per capirci. E detto questo, quindi Lemkin riteneva che si potesse attuare, riepilogare anche nel passato. Okay? E, secondo me, una volta che ci siamo capiti, tanto non si tratta di andare a processare Tizio Caio. Però, siccome quest'uomo sembrava avesse a volte la sfera di cristallo, c'è un genocidio nel Vecchio Testamento di cui Lemkin nega che sia un evento legittimante o emblematico della coscienza ebraica, e dice: è una cosa che è accaduta soltanto una volta dal punto di vista storico, così ce la presenta la Torah, e quindi non c'è alcuna ragione per farne un punto di riferimento. Ed è il richiamo ad Amalek. Ricordati di Amalek, cioè il dio degli ebrei, che avrebbe detto agli ebrei: quando sarai in pace, ricordati di quello che hanno fatto, cancella la loro, anche i loro animali. Okay? Questa frase è stata ripetuta non solo da Netanyahu. C'è tutto un sottobosco favorevole al genocidio in corso che la sta utilizzando. Lemkin per due volte nel corso della sua carriera, da ebreo, che ha avuto anche un breve momento di simpatia per il sionismo, come tutti in Polonia, dice: no, questa cosa qui non è parte della nostra cultura. Poi incontra il pensiero di Martin Buber, e quindi l'apertura verso l'altro, e l'altro che fonda lì, la dialettica tu-io, dove il tu è fondatore dell'io, sì. Il maestro di Levinà, per capirci, ecco. Questo, Levinas, perché teneva quella S che significava: non sono francese ma sono lituano. Ecco, è quel tipo di cultura ebraica che abbiamo praticato e che continuo a leggere. Dopodiché, sì, genos è anche il problema, lo dice lo stesso Lemkin. C'è un libro molto bello di una studiosa americana che insegna a Chicago, Anne O'Byrne, Byrne come David Byrne, The Genocide Paradox. Io mi scuso, il mio inglese è terrificante. Va bene, il paradosso del genocidio. Esatto, in cui lei si pone proprio questo problema, partendo da questa affermazione di Lemkin. È, come dire, se tu per genos intendi il processo, che quindi non ha un punto di inizio e non ha un punto finale, e non c'è un livello a partire dal quale ti arrocchi e lo difendi, ma è una continua fusione. E ripeto, è bello pensare che anche Mazzini la pensava così, cioè che non è un caso che questo qui, dopo aver fondato la Giovine Italia, ha fondato la Giovine Europa, e dovunque andava seminava il tetano, l'ira discende dalla Giovine Irlanda. E infatti a Dublino c'è un monumento a Mazzini, l'uomo che ci ha reinsegnato il fatto che noi abbiamo un'identità nazionale che ci hanno tolto, perché ci hanno tolto la lingua, gli strumenti musicali e così via. Ecco, se tu intendi genos in questi termini, allora possiamo anche evitare di sostituirlo con un sinonimo, ma dobbiamo intenderlo così. Se invece intendi per genos una cittadella che si arrocca, perché ti citavo Mazzini? Perché il nazionalismo romantico del primo Ottocento è quella roba lì, quella roba per cui un poeta inglese va a morire di colera in Grecia perché è andato a combattere per i greci, perché anche i greci sono fratelli, e i greci vengono a morire nel 48 per restituire il favore, tra virgolette, ai patrioti italiani che, essendo in esilio, sono andati a combattere in Grecia per loro. Poi alla fine dell'Ottocento il nazionalismo diventa quella roba orribile che alla fine ci è rimasta ed è il nome di quella cosa lì. Se per genos si intende quella cosa lì, il genos è la causa del genocidio. È qualcosa che sì, è nel cuore dell'essere umano. E qui, come dire, io ho avuto l'impressione che abbia ragione l'ultimo Cormac McCarthy quando dice che l'evoluzione è un tentativo fallito da Dio. Cioè che è proprio esplicito. Noi siamo un esperimento sbagliato. Finiamo in allegria con una battuta del cazzo. Esatto. Però Dio, per dire... Aspetta, Dio poteva far tutti gli uomini beige che sta bene con tutto? Esatto, hai ragione. I neri, gialli, bianchi, sì. Ma ti sembra? No, c'è un telefilm in cui un medico cattolico croato, okay, bosniaco, croato, Eyar, a un certo punto da una ragazzina qualche... Usa questo, che è rimasta incinta, che ha dei genitori ultra religiosi, le dà un qualche cosa che nella stragrande maggioranza dei casi provocherà un aborto spontaneo, e lui è un cattolico, e la ragazza gli chiede: ma questa cosa è contraria al volere di Dio? E lui le risponde: diciamo che è qualcosa che noi medici usiamo per dare a Dio l'opportunità di ripensarci. Ecco, questa è la una battuta straordinaria. Sì, alla Woody Allen. Ecco, c'è una trilogia di Margaret Atwood bellissima, che ovviamente non è l'ancella perché non è una trilogia, la trilogia del Mad Adams, in cui nel primo e nel secondo romanzo, perché sono la stessa storia da due punti di vista, l'umanità viene quasi azzerata, e nel terzo c'è una sorta di rinascita, di fusione, eccetera. E come dire, lei ha cercato di dare un orizzonte ottimista. Allora, voglio tirare fuori quella storia dell'ottimismo, della volontà e del pessimismo, anche perché non mi ricordo mai benissimo ottimismo e pessimismo dove vanno, però sì, io... perché Nick li aveva invertiti e sì, ti ha messo confusione in testa. Eh sì, ma la colpa è mia che faccio confusione. Però diciamo che a volte penso che siamo un tentativo sbagliato e che come umanità, però continuo visto che poi mi relaziono con gli altri, insegno di mestiere, che cerco di trovare la possibilità o di rimediare a qualcosa, o se c'è un Dio di suggerire a Dio che forse può fare un secondo tentativo invece di chiudere la partita dicendo l'esperimento è andato male. Sì, è andato male. Adesso si pensa all'intelligenza artificiale a fare con tutti. No, ma non vedrai, caro Dio. Posso fare una domanda su una parola che non è tornata? Scusa, Elena. Scusate, io devo solo dirvi che sono le 8:10, che io alle 8:30 devo andare in stazione. Detto questo, fino alle 8:30 sono qui. È una curiosità, adesso se no non so se mi sentono gli altri, è una curiosità legata alla parola intenzione, perché nel momento in cui si è scatenato il dibattito, lasciamo perdere il livello becero, però a livello giuridico, proprio per definire se c'è quel crimine o meno, la chiave è l'intenzionalità. E mi chiedevo se questo è un elemento già nel pensiero di Lemkin o che arriva nella convenzione. Perché è questo il motivo per cui, ad esempio, credo gli attivisti israeliani ci sono arrivati prima, perché loro l'intenzionalità l'hanno sentita probabilmente ricorrere già da parecchio, e non solo nei confronti di Gaza, perché qui nessuno mai parla della West Bank, dove è invece quell'intenzionalità fatta a bassa intensità, ma che colpisce da anni, diciamo almeno gli ultimi 10, sempre di più. Tu dici che i coloni hanno l'intenzionalità quando massacrano. No, ma l'intenzionalità no, è un problema, che l'intenzionalità va approvata dal punto di vista giuridico, e questo è stato uno dei motivi ricorrenti per dire: ah, aspetta, dobbiamo vedere se c'è uno statement. Però non sapevo, la mia curiosità è capire quando arriva a Lemkin questo come chiave di volta. Allora, no, l'intenzionalità è già nella proposta del 33, che appunto Lemkin non poté mettere, ogni tanto Lemkin ci torna su e dice: ah, se l'avessero approvata, no, non avrebbe fermato il nazismo, però ce l'avevi in mente, e però è già esplicitamente in tutte le stesure, quindi la prima bozza, la bozza, seconda bozza del 47, quella definitiva della convenzione, anche perché in termini proprio tecnici è anche qualcosa che può distinguere il genocidio dal crimine di guerra. E d'altronde non può esistere crimine senza intenzione, è un'altra cosa. Ne approfitto per dire, incidentalmente ma non per caso, anzi, che in ogni caso, e questo anche molti di quelli intelligenti che dicono non è genocidio ma crimine di guerra, crimine contro l'umanità, per il diritto internazionale umanitario non c'è una gerarchia. Cioè, se io dico non è genocidio, ma io ti ho detto le mie ragioni per cui penso che lo sia, ma se qualcuno mi dice è un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra, non sta sminuendo, non sta dicendo una cosa che prevede pene minori, è il responsabile, se processato e condannato, avrà la stessa pena del genocidio. E questo è importante da dire, la discriminazione verso quelli che dicono è un atto legittimo oppure è tutta un'invenzione propagandistica, okay? Questo sia chiaro. L'intenzione non può che essere la chiave di volta, e infatti se si vanno a leggere i rapporti, non soltanto quelli di Francesca Albanese, che una dei relatori, poi ci sono gli altri, ma anche il rapporto della Commissione ONU del settembre scorso, rapporto importante perché tra l'altro ha corredato quel rapporto con un'infografica fatta benissimo, qui capite per un insegnante quanto è importante avere un'infografica in due cartelle che riassume un rapporto, ma la chiave per dire è genocidio in tutti i testi giuridici che ho letto, e poi ci sono i grandi giuristi che si pronunciano, è sempre l'intenzione, e per dimostrare l'intenzione segue elenco di dichiarazioni, affermazioni eccetera, rispetto alle quali si può anche dire secondo me non è sufficiente, ma nessuno a quel livello giuridico dice c'è un'intenzione perché è chiaro che a Netanyahu gli stanno sul cazzo quelli lì, no, ci sono una serie di atti. Aggiungo, scusate se faccio il giurista, ma tra l'altro io continuo a non credere nel diritto, okay? Però continuo, ecco, è rovescio, come al di là di tutto, la cosa di cui sono davvero debitore a Francesca Albanese e che mi ha convinto che bisogna credere nel diritto internazionale, che in questo momento è l'unico argine che hai, che per te sia l'orizzonte finale o no, ma in questo momento il diritto internazionale va difeso, e in questo ci credo per davvero. Allora, porca la miseria, aspetta un attimo che adesso mi... L'intenzionalità è la chiave, dicevamo, nessuno ad alto livello giuridico dice che è solo perché... Abbiamo finito, basta. C'è più niente da dire, sta sfuggendo, vedi i processi, una cosa... Va bene, importante. Abbiamo capito tutto, basta. Ma era importante, dammi un secondo e ci arrivo, se non mi viene in mente sulle scarpone tutta la sequenza della, no, scusate, questa è la sentenza di Srebrenica, che fa giurisprudenza. Per dire intenzione genocida non è necessaria la pistola fumante, cioè, e anche questo Lemkin l'aveva capito anche prima, tant'è vero che una delle ultime battaglie, e questa l'ha vinta, e contro un tentativo francese che avrebbe reso imperseguibile il genocidio. Lemkin stesso dice: ma quando mai, se non raramente nella storia, hai il documento scritto, l'ordine, fai questa cosa qui? Certo, i nazisti hanno fatto, i nazisti hanno conservato le carte, però per dire, da quanto tempo noi sappiamo che i telegrammi con cui quel ministro, che poi verrà giustiziato a Berlino, turco, dava ordine all'esercito di avviare il genocidio degli armeni, esistono e sono autentici? Da pochissimo, però noi di genocidio degli armeni ne parliamo. Allora, sull'ex Jugoslavia non abbiamo documenti scritti, ma la giurisprudenza sul genocidio, allargando, ma con un'interpretazione, dice è sufficiente che si possa dedurre un insieme da un insieme coordinato di fatti aventi una finalità univoca, una intenzione che muove tutte queste azioni. Cioè, se io ricostruisco tutti i fatti e posso dimostrare che sono coordinati sia tra di loro sia nello scopo, allora sono legittimato a dedurre che c'è un'intenzione, anche se il telegramma, il dispaccio, la telefonata, la registrazione della telefonata non ce l'ho. E questo, ripeto, non è una opinione personale, ma è la giurisprudenza dei tribunali internazionali di guerra. Okay? Grazie per avermelo fatto venire in me. Ecco. Devi andare a prendere il treno. Direi che ringraziamo Girolamo. Grazie. Per il suo libro. Il libro, chi lo vuole, è là. Il profeta insistente. Il libro non l'hai fisicamente.